Partirei proprio dal nome, GianPC. Il nome è già pieno di contenuti, perché il nostro computer si rivolge al mercato dei bambini dei 16 anni, dei 5-10 anni, quindi al mercato delle scuole elementari, dei bambini che si affacciano al primo livello di istruzione. Ovviamente il mercato esiste, è un mercato vastissimo, in Italia abbiamo 2,5 milioni di bambini che frequentano con regolarità la scuola elementare, ed è un mercato che si rivolge soprattutto a un'esigenza, che è un'esigenza formativa ed è anche un'esigenza di cominciare a lavorare su un computer. GianPC è un computer portatile, estremamente piccolo, che può essere utilizzato da un adulto, è un computer a tutti gli effetti, dotato di Windows, di processore Intel. È rivolto ai bambini perché è molto robusto, perché può cadere per terra, è impermeabile e quindi è rivolto a un target che chiaramente presta un'attenzione allo strumento computer più con un'ottica di gioco che con un'ottica di lavoro. Senta, il mercato, comunque, l'interesse che i bambini cominciano ad avere nei confronti del computer è una tendenza spinta dalla famiglia, dalla scuola, da chi? Beh, io penso dalla società in generale, nella società includo il nucleo più importante che è la famiglia. E noi viviamo in una società digitale, in una società in cui la televisione diciamo bombarda a quei nostri figli. Io ho una bambina di 7 anni, Sofia, che vede la televisione, vede i cartoni animati, vede la comunicazione della televisione, vede il suo padre che ha il computer portatile, è affascinata da questo strumento e quindi numerose volte chiede di poter navigare in internet. I bambini di oggi sanno che internet esiste, sanno che internet è piena di contenuti. GianPC consente a loro di navigare in internet con sicurezza, proprio perché è dotato di strumenti che limitano l'accesso a internet soltanto a quei siti sicuri, limitano l'accesso alle mail soltanto a persone conosciute, agli amichetti. Permette GianPC, grazie alla sua telecamera, di poter vedere il papà in viaggio, di poter parlare e vedere gli amichetti collocati altrove. Quindi GianPC è studiato come un notebook utilizzabile dai grandi, ma con una struttura proprio di costruzione pensato per i bambini.